Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Bentrovati ancora da Mirko Cavallini Studio e di Daici Regia, il nostro spazio serale dei giorni della Chiesa, eventi e incontri che in questi mesi, in queste settimane si sono svolti in Diocesi di Padova. Stiamo ascoltando con piacere le diverse proposte che il Centro Universitario di Via Zabarella a Padova ha lanciato e realizzato in occasione dei 500 anni della Riforma Luterana, 1517-2017. Vi proponiamo questa sera l'incontro che si è svolto il 31 di gennaio con la giornalista, scrittrice, autrice, conduttrice Gabriella Caramore sul tema Riforma e Parola, Fondamento e Libertà. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Cosa si intende quando si dice la parola? Allora ho pensato di svolgere questo incontro in due parti. Nella prima vorrei, in primo luogo, provare a capire con voi che cosa si intende quando si dice parola di Dio, no? Ecco, cos'è? Dio che parla? Chi l'ha mai sentito? Come dobbiamo intendere questa parola di Dio in senso letterale, in senso figurato? Poi, in secondo luogo, qual è il rapporto fra quella che ci è stata tramandata come parola di Dio e il racconto che ne viene fatto, cioè la Bibbia? Perché poi per lo più quando i protestanti dicono la parola di Dio intendono il libro. Allora è la stessa cosa, ma come fa ad essere la stessa cosa se abbiamo un libro? La parola di Dio nella carta. C'è un grandissimo teologo ebraico del secolo passato, Heschel, che dice le parole non sono di carta, sono di carne. Ecco, ma quando le parole diventano carta è diverso delle rispetto alla parola voce, alla parola viva. E poi, in terzo luogo, vorrei considerare la vera e propria rivoluzione apportata da Lutero nella storia cristiana. Cioè, in che modo, come mai, perché, come è successo, ha rimesso al centro dell'attenzione della preghiera del credente quella che chiamiamo la parola di Dio. E poi invece nella seconda parte vorrei provare a rispondere a quelle che sono, riprendo delle indicazioni che mi ha dato appunto Don Roberto, le sfide del presente. Quali dinamismi ha messo in moto la riforma in relazione alla parola? E soprattutto quali dinamismi sono oggi possibili, quale sapienza possiamo ricavare per il nostro modo di essere qui in questo presente, in questo mondo in subbuglio, in questo mondo in subbuglio anche nelle forme del pensiero. Ecco, possiamo trattenere qualche tesoro, qualche scheggia della riflessione di Lutero intorno alla parola di Dio, perché anche Lutero, noi celebriamo quest'anno 500 anni, ma appunto sono passati 500 anni. Ecco, e allora in che rapporto potranno mai stare il fondamento biblico di questa parola e la libertà a cui oggi siamo chiamati? Allora, il primo punto. Cosa devo fare di questo? Niente. Stereo. Stereo, va bene. Si sente un po' meglio di prima? Sì, può andare. Allora, se ci pensiamo, allora, primo punto, la parola di Dio. Ecco, è di grande fascino, credo, il posto che tutti più o meno i libri della Bibbia, tutti i diversi autori assegnano la dimensione della parola, come se per far comprendere la complessità, non voglio dire di Dio come se fosse un ente, diciamo della dimensione Dio, ecco, dell'ambito di significato dentro il quale possiamo parlare di Dio, ecco, come se volessero, facessero ricorso all'immagine della parola per, quindi del linguaggio, per dar conto di Dio, di quella figura, quella cosa a cui abbiamo dato il nome di Dio, come se volessero rimarcare che la dimensione Dio ha a che fare con il dinamismo del linguaggio, con il peso che il linguaggio ha nell'interrogazione umana sulla realtà, sulle cose del mondo, chiedersi, no? Come facevano i primi pensatori, i primi filosofi, ricorderete i presocratici, no? Come funziona il mondo, chi siamo, dove siamo, qual è il centro principale, è linguaggio, l'interrogazione è linguaggio. E poi il peso che ha il linguaggio nella relazione che l'essere umano intrinsecamente è, perché se noi siamo relazione lo siamo attraverso il linguaggio, prima ancora di essere in relazione con gli altri esseri viventi, nella concretezza quasi materica della parola, no? La parola è qualcosa, la parola parlata è qualcosa di pesante, che ha un peso, che ha un significato, che può decidere della vita o della morte di qualcuno, ma nello stesso tempo è leggera, lieve, un soffio, non qualcosa che ci viene da dentro ed esce fuori. Ecco, allora non si tratta semplicemente di dare una connotazione antropomorfica a questo Dio, Dio parla perché anche gli uomini parlano, e dunque, ma è qualcosa di più interessante, cioè un Dio in cui la dimensione linguistica è proprio costitutiva. Allora, quando si dice la parola di Dio, significa semplicemente si fa per dire Dio, che Dio parla. Ma si può anche dire diversamente. Dio parla. E cioè che ciò che chiamiamo Dio è strutturato come un linguaggio, eh? A tal punto è strutturato come linguaggio che l'inizio stesso dell'universo è pensato come... è che è un po' pesante da tenere. Allora, aspetta, che posso trovare? Risolto. Allora, che l'inizio stesso dell'universo è pensato come opera di quella parola creatrice che dice luce e la luce è. Quindi pensate, cioè, come è stato immaginato questa funzione del linguaggio, assolutamente indispensabile. In realtà questo mito della creazione, in principio Dio disse, eccetera, eccetera, è molto più complicato di così, ma non ci fermiamo su questo. Qui ci importa dire che la parola di Dio è raffigurata come una tale potenza che è in grado di generare un mondo, più mondi, gli universi, l'universo. E poi il Signore Dio da qui in avanti parla moltissimo in tutti i libri della Bibbia, no? E pronuncia molte parole di chiamata, di promessa, di insegnamento, di giudizio, di condanna, di consolazione, di salvezza. Credo che tutti voi abbiamo in mente, facciamo degli esempi, tutti voi avete in mente quando Dio disse, e Dio proclamò, e Dio giudicò, eccetera, eccetera. Però anche il Signore non parla soltanto con la voce, parla attraverso segni, immagini, gesti, parla attraverso il fuoco. Ad esempio, non so, nel monte Sinai era tutto fumante perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco. Parla attraverso il silenzio. Ricordate Elia sul monte Horeb, il Signore non era nel tuono, non era nel fuoco, non era nel vento, era in una voce di silenzio sottile. Parla nell'uragano, parla con una pietra. In Isaia c'è scritto: una parola mandò il Signore contro Giacobbe e cadde su Israele, cadde come una pietra pesante. Parla attraverso i prodigi, ricordate i miracoli di Elia, Eliseo. Ecco, in ogni caso però crea relazione. Perché relazione? Perché è una relazione che va alimentata con l'ascolto. Infatti non è per caso che la preghiera principale di Israele cominci con un perentorio invito all'ascolto, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Ci sono circa più di 650 occorrenze della parola, variamente declinata, ascoltare nei libri della Bibbia, in un cortocircuito che va dal ascolta Israele, la parola del Signore, oppure Signore ascolta le nostre preghiere, le nostre suppliche e così via. Quindi c'è come una circolazione di ascolto e quindi un richiamo alla parola. Allora, il credente è chi si mette in ascolto di questa parola. Il credente è colui che tenta di decifrarla, di metterla in pratica, metterla in relazione con la propria storia, il proprio vissuto. Il credente è colui che risponde a questa parola e chiede a sua volta di essere ascoltato, e si apre così in una circolazione di linguaggio, una apertura di senso dentro la quale si alimenta quell'esperienza che possiamo, potete, molti chiamano la fede, oppure anche un'esperienza di fiducia nella possibilità di essere ascoltati, accolti, consolati. Ecco, ma qui si crea il primo problema che riguarda il nostro tema di oggi. Che cosa si ascolta, lo dicevo prima, quando si ascolta la parola del Signore? Che cosa sente chi dice di ascoltare la voce di Dio? Sente davvero una voce materialmente? O è un suono interiore? O è una comprensione del mondo? O è lo svelamento di un enigma? La chiamata a un compito? La coscienza, come la volete chiamare? Ecco, forse tutte queste cose insieme, tutte queste cose e anche di più, perché la parola di Dio è un orizzonte di pensiero, è il richiamo alla coscienza, ma è il tentativo anche di dare risposta alla fatica di vivere, è cercare di discernere fra più possibilità di fronte a una scelta, è aprire un nuovo varco di una conoscenza, è supportare il dolore, è desiderare la gioia, è contrastare il male, costruire il bene. E se tutto questo vi sembra troppo vago, e lo può essere, ecco, tuttavia nella Bibbia la parola di Dio dice tutte queste cose, racconta tutte queste cose, racconta tutti questi vissuti umani. Dice che la vita è possibile, che bisogna scegliere la vita invece che la morte. Dice che è possibile la pace, ma che bisogna operare per la pace, non per la guerra. Ecco, certo non è semplice decifrare la parola, e d'altra parte pensiamo anche, è evidente, alla fatica quotidiana che facciamo noi per comprendere quello che un altro essere umano ci dice, ci chiede, ci mostra, ci vuole suggerire. E d'altronde anche i profeti fanno fatica a decifrare la parola di Dio, spesso non capiscono che cosa viene loro indicato, no? Cosa sono questi segni, che cos'è la pentola che bolle, dice Geremia. Allora c'è un continuo fraintendimento della parola del Signore, e quindi occorre armarsi di pazienza, di studio, di un cuore che ascolta per capire quella parola. In ogni caso, quando si dice la parola, si intende questa fatica dell'ascolto e del discernimento, per cui è evidente che non è una cosa scontata, è un insieme di sfaccettature alle quali ci possiamo un pochino approssimare. Il secondo punto è appunto che quando nella vita dei credenti e delle comunità, in particolare quelle protestanti, si dice la parola di Dio, e questo è il secondo problema che incontriamo, si dice anche e soprattutto, evidentemente, la parola di Dio come è contenuta nel libro o nei libri della Bibbia, nel libro che chiamiamo Bibbia, dove sono confluite in scrittura, voi lo sapete che non è un libro, la Bibbia sono tanti libri, e in quelle scritture sono confluite una serie di tradizioni, di racconti, di leggi, di miti, di preghiere, di precetti, di visioni del mondo. Se noi guardiamo i codici contemporanei della Mesopotamia, troviamo per esempio qualcosa che assomiglia al Decalogo, troviamo poi in Gilgamesh la scena del diluvio, cioè sono confluite tante storie. E poi forse voi sapete che questi libri sono stati più o meno, chiaro che si tratta di queste tradizioni, sono state poi più o meno messe in scritto durante e dopo l'esilio babilonese, per dare per tenere salda una tradizione, per non disperderla troppo. Ricordate nel libro di Neemia c'è questa scena bellissima in cui al capitolo 8 il popolo si raccoglie per ascoltare la lettura del libro, e tutti nel popolo, quindi si suppone anche i bambini, Paolo De Benedetti diceva anche gli animali, chi lo sa. Ecco, quindi la lettura della Torah dall'inizio alla fine. E ogni tanto viene citato il libro anche dentro l'interno del libro, quando per esempio Ezechiele disse: mi diede un libro, mi diede il libro da mangiare, io mangiai quel libro. Ecco, la parola si divora, la parola nutre. Poi nell'Apocalisse è detto ed era dolce come il miele ma amara come il fiele nelle viscere, quindi una parola anche difficile da sostenere, difficile da digerire. Ecco, che cosa accade però quando poi entra dentro il libro e soprattutto quando si forma il canone, e cioè quelli sono i libri della Bibbia, non ce n'è uno di più né uno di meno. Ecco, naturalmente tutto questo ha delle motivazioni storiche, perché è evidente che se si vuole consolidare una tradizione a un certo punto va chiusa, ma va delimitato un recinto. Ecco, però allora quello che si interpreta non è più soltanto la parola di Dio percepita dai profeti, ma oppure la decifrazione dei suoi segni, dei suoi silenzi, con tutto l'elemento di rischio, di incertezza che questo comporta, ma diventa appunto un corpus, un corpo chiuso, un corpo ermetico, sigillato, incatenato. Lutero dirà: bisogna scatenare la parola, ma scatenarla non tanto dalla chiusura del canone, ma dalla chiusura, come vedremo, nei termini di una teologia arida e di una chiesa perduta, diciamo. Ecco, paradossalmente questo non rende più certa la parola, il fatto che si dica la parola è quella e non un'altra, ma la rende più fragile, più esposta a chi di autorità se ne appropria, a chi se ne fa custode e garante. Ma poi che garanzia abbiamo di questa custodia? Che garanzia abbiamo che i custodi di quella parola siano veramente i custodi e l'abbiano veramente intesa e veramente riescono a trasmetterla? Ecco, questo è poi il dramma che vive ogni dimensione fondamentalista, che tocca tutte le religioni ovviamente. Qualcuno si appropria di una tradizione, di un corpus di scritture, di un testo, di una memoria, e impone una sua lettura, la sua interpretazione, il suo controllo sugli altri. Ecco, in ogni tradizione religiosa accade questo, e forse non soltanto religiosa. Ma per fortuna o per grazia, come volete, c'è sempre stato non solo chi ha tenuto aperta una dimensione vitale di esperienza della parola, i Vangeli stessi ne sono in gran parte una testimonianza. In fondo, quando Gesù cita abbondantemente la legge e i profeti, che cosa fa? La interpreta, no? Cioè è un bellissimo esempio di come si può interpretare liberamente la parola scritta. Ecco, ma che cosa accade in ogni tradizione quando se ne fissa un codice, quando si stabilisce chi è l'interprete di quel codice? Chi è il guardiano di quella parola scritta? Accade che quel corpo vivo è stato, dalle circostanze, dalla storia, reso immobile, appunto, prigioniero di quel libro vibrante di vita vissuta. Se noi prendiamo in mano la Bibbia, è un libro, di alcuni libri si diceva che bruciano le mani, no? Cioè è un libro che brucia, è un libro che scotta, è un libro che racconta storie tremende, di disperazione, di consolazione, ma insomma è un libro, come dire, ha una narrazione viva, ecco. Non è, ecco, di quel libro è stato fatto un libro di norme etiche, di comandamenti morali, di prescrizioni devote. In ogni tempo questo è accaduto, e lo ripeto, per ogni tradizione, e per delle ragioni storiche ben precise, per evitare una deriva dei significati che avrebbe precipitato quelle tradizioni nel caos. Però, ecco, quel libro non è un codice di diritto, sono racconti, storie, rivelazioni, suppliche, confessioni, parabole, paradigmi. E allora come possiamo pensare che qualcuno sa detenere un'unica chiave interpretativa di quella biblioteca che è la Bibbia, e che questo possa valere per tutti, in ogni tempo, in ogni situazione. Come possiamo dire Dio ha detto questo? A chi, a che cosa abbiamo dato il nome di Dio? In che modo una certa voce è stata udita? Con quali parole quella sentenza, diciamo, è stata scritta? Che cosa intendeva lo scrittore? A chi si voleva rivolgere? Con quali finalità? Cioè, queste sono domande che, cioè, quando prendiamo in mano quel libro ci dovremmo fare. Ecco, e se non teniamo aperto ogni volta che apriamo una pagina della Bibbia questa gamma di potenzialità, naturalmente poi ci può essere anche una lettura più immediata, più diretta, questo è ovvio, no? Però se ci mettiamo, se vogliamo capire cosa c'è lì dentro, beh, dobbiamo fare un certo sforzo, una certa fatica. Ecco, se non ci iniziamo, nel senso di iniziarci, aprirci a un ascolto aperto e non chiuso nei dogmi rigiditi nei secoli, oppure nelle consuetudini rattrappite nel corso della storia, difficilmente potremo accogliere quella parola come qualcosa che parla al presente. Perciò io credo c'è tanta distanza, no? Perciò i giovani si allontanano da che cosa? Dalle chiese, dalle comunità chiuse, perché quelle parole non parlano, perché sono state troppo custodite, troppo protette, troppo strangolate, se possiamo dire. E allora veniamo alla riforma, terzo punto, insomma, chiaro che procediamo un po' per grandi affreschi. Ecco, quando Lutero comincia a dar corpo alle sue inquietudini, a che cosa si trova di fronte, o meglio, in che cosa si trova immerso? Allora, ci sono due grandi corsi, diciamo, due grandi fiumi, canali, che hanno dato, che hanno da un lato accolto e custodito, ma dall'altro inaridito e soffocato la vita cristiana. Da un lato la storia, il fatto che il cristianesimo, dico per dire la cosa più clamorosa, ma insomma, da piccolo gruppo di credenti come erano, una piccola scuola, diciamo, dell'ebraismo, diventando poi più o meno sempre più una comunità crescente di chiese confessanti, lo stesso Signore Gesù Cristo disperso in diverse città e villaggi. Pensate a quale varietà di chiese, quindi di tradizioni c'era proprio in epoca apostolica. Ecco, siamo diventati nel giro di un paio di secoli, due o tre secoli, una religione dell'impero, religione dominante, religione trionfante. Ecco, tutto questo non poteva non snaturare proprio il senso di quella parola evangelica, che è annuncio, ma annuncio per i derelitti, i dispersi, i vinti, gli umiliati, i piccoli soprattutto. Ecco, si è creata una frizione fra quella parola che capovolgeva l'ordine del mondo e il fatto di essere diventata quella parola scudo dei potenti. E si è creato d'altro lato invece un collante tenacissimo tra chiesa gerarchica e potere, che è arrivato poi fino all'Ottocento attraverso Sacri Romani Imperi, insomma attraverso tante cose che conosciamo. E d'altro lato c'è un altro grande bacino in cui quella parola aveva perso vigore, da una parte snaturata per motivi storici contingenti, ma dall'altra la teologia. In tempo biblico, se ci pensiamo bene, non c'è teologia, c'è ascolto diretto della parola, c'è il suo commento. Infatti qui la tradizione ebraica, bene o male, comunque ha conservato, no, questa grande elaborazione, questo grande commento, questo grande archivio di interpretazioni diverse, questa grande libertà dell'interpretazione. Ecco, la teologia nasce dall'incontro con il pensiero filosofico greco, con le istanze dei concili, anche lì per definire la dottrina, tutte cose che hanno una loro intrinseca necessità, ma questo è. Allora, naturalmente c'è anche una grande teologia, pensiamo a Agostino, pensiamo a Tommaso, pensiamo ad altri, però al tempo di Lutero la teologia, erede sostanzialmente della teologia scolastica di Tommaso d'Aquino, aveva finito per essere molto lontana dalla stessa vita dei credenti, Perché? Perché molto lontana dalla parola viva contenuta nella Bibbia, molto astratta, artefatta, concettuale, formale. L'annuncio cristiano si trovava da un lato di fronte a una chiesa catturata nelle forme del potere, pensiamo alla chiesa appunto del Cinquecento con la quale ha a che fare Lutero, e dall'altra alla presa con una teologia, logos, intorno a Dio, lontana dalla vita dei credenti. Del resto Lutero, l'avrete già sentito nelle ricostruzioni storiche, non è stato il primo a chiedere, a parte che poi non si era neppure posto il problema di una riforma della Chiesa, quella è stata dopo, e comunque l'esigenza di una riforma della Chiesa, almeno da un paio di secoli, nell'ambito della grande Chiesa comune, era molto forte, ci sono dei documenti molto clamorosi, diciamo. Ecco, ma c'è un pensiero di Lutero che dice: so e confesso di non aver imparato dalla teologia altro che l'ignoranza del peccato, della giustizia, del battesimo, di tutta la vita cristiana, e non ho imparato che cosa siano il potere di Dio, l'opera di Dio, la grazia di Dio, la giustizia di Dio, la fede, la speranza, l'amore. In breve, non ho imparato nulla. Era monaco agostiniano, quindi studiava la teologia. Non ho imparato nulla, ma solo cose che poi ho dovuto disimparare perché erano completamente contrarie alla Sacra Scrittura. Allora, per questo la svolta. Quando capisce Lutero questa intuizione, con insomma delle cose che gli saranno state raccontate o che vi verranno raccontate, insomma si mette lì a leggere San Paolo, vabbè, e capisce che mettendosi in rapporto diretto con le scritture cambia anche il suo rapporto con Dio completamente, completamente diverso il modo di intendere la fede. Capisce anche che è da riformare, da capovolgere o quantomeno da modificare il rapporto tra la comunità dei credenti, cioè la Chiesa, e le scritture. Leggendo la Bibbia senza i filtri oscuranti della gerarchia ecclesiastica e della scolastica deteriore, ecco che si apre la possibilità di un annuncio vivo. Finalmente trova il Vangelo, l'annuncio, Evangelo, la buona notizia. Ecco che le parole non sono di carta, ma di carne o di spirito. Leggendo San Paolo ho trovato quello che avevo perduto leggendo la teologia scolastica. E quindi ecco che allora si mettono in moto la passione dell'esegeta, perché Lutero ce l'aveva, e la sete del credente. E queste due passioni danno luogo a quella miscela esplosiva che è Lutero. Da un lato occorre leggere i testi in originale, studia l'ebraico, studia il greco, ma siccome capisce che non tutti possono mettersi a studiare il greco e l'ebraico, li traduce in lingua corrente, cioè basta il latino che nessuno capiva nelle chiese. Io mi ricordo ancora quando ero piccola c'erano ancora le messe in latino, e poi insomma alcune persone molto semplici ripetevano queste parole storpiate che ovviamente non avevano nessun senso. Ecco. E tradurre nelle lingue moderne, poi nasce appunto nel tedesco moderno, eccetera, eccetera, perché ciascuno possa avervi libero accesso. Certo, non da soli, con l'aiuto della comunità, tutto quello che volete, ma liberamente, ecco, porsi nudi di fronte alla nudità della parola. E allora far rivivere quella parola, farla palpitare, non studiare dottrina. Ma, e questo deve essere una libertà per ciascuno, e ciascuno può contribuire a rendere operante questa libertà. E questa è la libertà del cristiano. La parola di Dio, scrive Lutero, non serve a niente se non è una parola che inquieta, che turba, che non lascia tranquilli, che toglie il sonno. Ora noi non ci fermeremo ovviamente sulla teologia di Lutero, avrete altri, è già stato Paolo Ricca qui, ce l'avrete, quindi. E anche poi il priore, ormai non più priore, Enzo Bianchi, no? Tra l'altro Enzo Bianchi dice sempre, probabilmente lo dirà anche a voi, che Lutero ci ha salvato il Vangelo, ci ha conservato il Vangelo, l'ha salvato dai miasmi, delle gerarchie. Però capiamo bene, credo, la differenza tra una teologia impostata sulla parola viva, che parla a ciascuno di noi, e una teologia basata sul diritto naturale, oppure sulla morale, oppure sulla precettistica, eccetera, eccetera. Ecco, a me piace sempre ricordare un episodio, quando fu mandato in Germania il cardinale Cajetano per per fare un esame a Lutero, c'è questo incontro tra i due e Cayetano racconta e Tego dice dunque, come si dice? Diceva. Io dicevo statuta, precetta, no, ego clamaban, statuta, precetta, e Tille diceva evangelium, evangelium, cioè Lutero dice il Vangelo, l'altro sì, quell'altro, ma lo statuto dice questo, i precetti dicono questo. Ecco, una teologia senza slancio può essere facilmente domata, imprigionata, incatenata. Per questo Lutero dice che è necessario togliere le catene, scatenare quella parola. Allora, venendo alla seconda parte però, quali dinamismi ha messo in moto la riforma in relazione alla parola e soprattutto quali dinamismi sono oggi possibili? Come possiamo noi assumere l'eredità di Lutero proprio rispetto alla centralità della parola? Quale sapienza possiamo ricavarne? Allora, intanto credo che non si fa un buon servizio a Lutero assumendo ciecamente alla lettera quello che Lutero ha detto. Anche rispetto all'esegesi sono passati 5 secoli. Lutero chiama ancora i libri della Torah il primo libro di Mosè, il secondo libro di Mosè, secondo l'antico uso, quando ho chiesto al rabbino di Segni ma chi li ha scritti questi libri, l'ha scritti Mosè. È chiaro che è una convenzione, però voglio dire, dobbiamo assumere delle distanze, oppure cosa che si è fatta fino a poco tempo fa, ma comunque la faceva anche Lutero, assume l'Antico Testamento come prefigurazione del Nuovo. Oggi è impensabile per una teologia corrente, diciamo, è il Nuovo Testamento che si innesta nell'Antico. Ecco, 5 secoli di esegesi, 5 secoli di storia, 5 secoli di pensiero, allora dovremmo essere pronti per pensieri nuovi, per pensieri audaci, per raccogliere sì il fondamento di quelle scritture, ma ecco, fondamento non dovrebbe essere una parola che spaventa, perché fondamento è un po' come il letto di un fiume nel quale siamo cresciuti, la lingua in cui siamo stati formati, la terra di cui ci siamo nutriti. Allora io penso che il nostro tempo sia pronto per una trasformazione del pensiero anche in teologia, ma si stenta, non so qual è la vostra impressione, ma a me sembra che si stenta. Noi viviamo oggi in un tempo di crisi, di declino dell'Occidente, questo mi sembra evidente, di una pluralità di linguaggi, facciamo fatica a tenere dietro a linguaggi così diversi, a situazioni storiche così diverse. La storia non ha gli stessi tempi ovunque, allora c'è una storia che vive in un certo periodo e un'altra che vive in un altro completamente, quindi insomma facciamo molta fatica a tenere insieme tutto questo. Ma soprattutto altre visioni del mondo si affacciano, ormai abbiamo la possibilità di avere in presa diretta ciò che accade in un alto grattacielo di Dubai oppure in un villaggio della Pampa, insomma, ecco. Poi, in ogni caso abbiamo la percezione molto netta di vivere in una città globale, ma è faticosa questa vita nella città globale, anche dal punto di vista delle religioni. Non soltanto viviamo, come si diceva qualche decennio fa, nel supermercato delle religioni in cui ciascuno, pure la religione fai da te, eccetera, insomma sono espressioni anche un po' passate. Abbiamo la percezione che le strade della conoscenza e dello spirito siano davvero tante, e allora dobbiamo aprire a questa molteplicità di strade. Ed è impossibile dire o pensare che una sia superiore all'altra, anche se continuiamo a farlo, di fatto lo facciamo. Esistono poi tradizioni o forme di civiltà che non si sono espresse attraverso architetture religiose in senso proprio, che continuano a dare un contributo alla civiltà passando attraverso altre costruzioni del pensiero. Pensiamo anche per esempio al contributo dato dallo sviluppo del pensiero scientifico, non solo in termini di miglioramento delle condizioni di vita, di tecnologia, cioè i suoi aspetti positivi, i suoi aspetti negativi ovviamente, ma in termini di esplorazione di mondi, di conoscenza dell'universo, di interrogazione sulla materia, sullo spirito, sul senso della vita umana, allora se noi non facciamo interagire questi pensieri anche con il pensiero religioso, beh, possiamo anche lasciarlo cadere, perché non risponde alle domande del nostro tempo. È impensabile che in questo mondo in subbuglio non vi sia anche la possibilità di elaborare in modo nuovo il senso delle religioni. Che fare del... Adesso capisco che qualcuno potrà essere anche urtato, ma del Solus Christus di Lutero e delle chiese della Riforma, ma anche della Chiesa Cattolica ovviamente, e di tutte le confessioni cristiane. Da un lato è inevitabile che se è cristiano, se si riconosce in quel messaggio, in quella storia, in quella parola, bene, allora Cristo è il suo punto di riferimento. Però come pensare oggi che esiste una sola via, sapendo a quali distorsioni porta l'opzione per un unico pensiero, per un unico Dio, non perché ce ne siano tanti, ma per il proprio Dio, per la propria religione nei confronti di tutte le altre. Allora come uscirne? Intanto ci vuole, non lo so, cioè magari poi ne possiamo parlare insieme, ci vuole un'operazione di coraggio. Dunque, a me è capitato proprio nei giorni scorsi di riprendere in mano per vari motivi i testi di Simone Weil, che non frequentavo da tempo perché mi ero un po' allontanata da tante cose del suo pensiero. Ecco, ma quando lei parla della sua vocazione religiosa a padre Perrin, questo domenicano cieco che ha conosciuto durante il periodo di Marsiglia, ecco, lei dunque intanto descrive la sua adesione al cristianesimo come una vera e propria chiamata, una vera e propria conversione. Tra l'altro sono pagine anche molto belle, così dei momenti di rapimento spirituale, sente cantare un fado in un villaggio povero del Portogallo, rimane incantata dalla visione di questa, così, della semplicità, della povertà di questi pescatori, poi rimane catturata da un canto gregoriano nell'abbazia di Solem. E capisce che il cristianesimo, lei dice, è la religione degli schiavi, cioè degli ultimi, dei derelitti, e capisce che può essere qualcosa anche per lei, ma soprattutto per il dolore che abita il mondo. E lei dice, io non ho mai cercato Dio, ma capisco che sono sempre cresciuta in una dimensione, quasi spontaneamente, quasi senza saperlo inconsciamente, in una dimensione cristiana. E però non entra nella Chiesa cristiana perché sente questa, nella Chiesa cattolica nella fattispecie, perché sente che c'è un'esclusione di troppo altro di importante: l'esclusione del mondo greco, l'esclusione del mondo indiano, l'esclusione, dunque lei dice aspettate che ve lo voglio trovare. Insomma, un Dio alla definizione del quale concorrono il pensiero greco, platonico, pitagorico, il pensiero cristiano, le conoscenze antiche dell'India, della Cina, di tutte le tradizioni religiose e il pensiero del mondo. E allora come può, lei dice, un Dio, una verità, se una verità essere rinchiusa dentro una storia, dentro una tradizione, per quanto bella, per quanto grande? Ecco, lei dice, la Grecia, l'Egitto, l'India, la Cina antica, la bellezza del mondo, i riflessi di questa bellezza nelle arti e nella scienza, le pieghe del cuore umano, negli animi che non hanno nessun credo, tutte queste cose hanno influito nella mia resa a Cristo, forse più di tutto ciò che è visibilmente cristiano, perché dentro il cristianesimo, cioè dentro questa storia della Chiesa, questa chiusura dentro un unico orizzonte, un'unica verità, ecco, lei lo sente stretto, e secondo me è tempo di pensare in questi termini. Non so come, non voglio scardinarvi dalle vostre credenze, ma è tempo di fare i conti con questo. Ecco, arrivo a dire il cristianesimo dovrebbe non solo non imporre, oggi certamente non siamo più al tempo degli anatemi, al tempo neppure delle missioni impositive, eccetera, ma dice dovrebbe non solo non imporre, ma nemmeno annunciare la fede in Cristo, semplicemente accogliere ogni esperienza spirituale autentica, forte. Ma non si può identificare il cristianesimo tout court con la verità, è solo una delle sue espressioni. Le altre non le conosciamo, non è che le possiamo conoscere tutte, dobbiamo stare dentro dove siamo cresciuti, dove abbiamo conoscenza del linguaggio, ma non possiamo pensare che c'è una verità più verità delle altre. Sembra una cosa evidente, ma non ci comportiamo così. Non la sto proponendo come un modello, come l'unica via possibile, ma certo, ecco, l'unica via possibile è pensare con questa apertura. E questo è un modo di vivere in libertà il rapporto alla parola di Dio. Ecco, ma tornando all'eredità di Lutero, la libertà del cristiano è il fondamento della parola. Troppo? Altri 5 minuti? Ancora più, va bene. Allora, quale libertà è possibile in rapporto alla parola? Non la libertà, ovviamente, l'arbitrio, fare quello che ci pare, eccetera, eccetera. Ma, e qui voglio proporvi un altro pensatore, più cristiano della Veil, un gesuita, Michel de Certeau, che conoscerete bene, credo, ecco, il quale, cioè, anche lui, una volta che mi imbatto in questi pensieri, beh, poi lui, insomma, parla di tante cose, parla della debolezza del credere, il credere non deve esprimersi come una forza, ma come una debolezza. Va bene, ma soprattutto parla in alcune pagine dell'intelligenza del cristiano. Il cristiano deve, il credente comunque, deve esprimersi con spirito critico in tutte le cose, deve esprimersi con libertà, con intelligenza. L'intelligenza deve essere un comandamento per i cristiani, per i credenti, l'esercizio dell'intelligenza. Ora pensate cosa vuol dire questo, deve essere un comandamento, peraltro Lutero diceva che benissimo, bisognerebbe inventare degli altri comandamenti nuovi, cioè anche lì osare, interpretare, aggiungere, cercare altre strade. Ecco, allora è in questo compito di un pensiero libero e critico che si innesta questo filone del lavoro di de Certeau che penso profondamente proficuo per chiunque di noi in questa nuova fase del mondo. Allora, smetterla di pensare anche al cristianesimo come ogni altra fede, peraltro, seguendo canoni, autorità, istituzioni, convenzioni, che non vuol dire non accompagnare il corso nel quale ci si trova, ma ecco, sapere che ogni specificità religiosa è evanescente, che ogni esegesi, dopo, ecco, questo anche Lutero, no? Dopo essere stata esperienza di liberazione, può diventare una nuova fortezza, dentro la quale non vi è più esperienza del credere. Non è che sia poi necessario credere, ma non vi è più quell'esperienza a cui ci si ispira, per cui tanto vale lasciarla cadere. Allora, vivere il cristianesimo, dice appunto de Certeau, come esperienza di fragilità, come mezzo per diventare ospite di un altro che inquieta e fa vivere, accettando di essere deboli, rinunciando alla prospettiva di una universalità dei cosiddetti valori cristiani, accogliendo la debolezza, che è la sola, mi sembra, che sfugge al rischio di una prepotenza idolatrica, anche se è chiaro oggi la prepotenza idolatrica è mascherata sotto tante forme, però c'è ancora quest'idea che i nostri valori sono migliori dei valori degli altri. Ecco, questi possono anche sembrare percorsi elitari, appunto, ma secondo me non lo sono. È elitario il procedimento narrativo che mettono in atto degli studiosi come de Certeau, come La Veil, come Bonhoeffer o altri, ma in realtà sono modi di pensare la parola nella congerie del mondo e la libertà in opposizione all'indifferenza e all'arbitrio. Ultimo passaggio. Allora, abbiamo detto la libertà, ecco, il fondamento dove va a finire. Allora, possiamo ancora chiamare fondamento quella parola, possiamo ancora pensare di darle centralità in una vita? A me sembra di sì, a patto che appunto per fondamento si intenda, ecco, non la pietra conficcata nella terra, ma un terreno fertile, ramificato, qualcosa appunto come il letto di un fiume, come dicevo prima, in cui molte gocce d'acqua convergono e portano verso una direzione, ma incontrando altre acque, irrigando molte terre, qualcosa di mobile, di dinamico, di fecondo, in movimento verso la vita, a patto che si trovino, ascoltando le parole antiche, modi nuovi per farle risuonare dentro di noi. E certamente, se io apro a caso il testo biblico, posso trovare un'infinità di parole, di versetti, di pensieri che non posso non sentire come fondamento della vita di ciascuno di noi. Se io leggo, non so, e Dio disse sia luce, la luce fu, e Dio vide che la luce era cosa buona, e separò la luce dalle terre, beh, è una visione bellissima che niente mi può scalfire. O se io leggo onora tuo padre e tua madre, ama il prossimo tuo e te stesso, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, insomma, ne abbiamo in mente un'infinità di cose che sentiamo costituire un fondamento per la nostra vita. Ecco, allora non posso non cogliere il filo sottile che le lega alla nostra storia e che dà un'apertura alla nostra storia. E sono parole che durano per sempre, parole di vita eterna, come viene detto, e ci commuovono per sempre, ci chiedono di tornare sempre e di nuovo a metterci in ascolto di questa voce. E non posso non capire come in quelle pagine nasca il fondamento, la passione per la libertà dei popoli e degli individui, per la giustizia che rende tutti uguali davanti alla legge, davanti alla vita, per una fratellanza, appunto, libertà, uguaglianza, fraternità, per una fratellanza in cui l'altro conta più di noi stessi, diventa misura di ogni comportamento, per una speranza che il bene possa irrompere nelle nostre vite, per la guarigione invece della malattia, per l'armonia invece della guerra, per il benessere invece della miseria, per la pace interiore invece del tumulto. Ecco, non è questo che secondo il senso della preghiera, no? L'espressione di una speranza, la formulazione di un desiderio. E arrivo a dire che se la parola di Dio mi dovesse dire qualcosa di diverso da questo, no? E mi dovesse istigare all'odio, all'indifferenza, alla disperazione, alla violenza, o non è parola di Dio, non è parola che meriti la mia attenzione, la mia devozione, e dunque è meglio lasciar perdere i libri sacri, o io non l'ho saputo intendere, e allora devo rimettere in discussione me stessa e la mia devozione inutile. Io credo che non ci sia altra possibilità, e se non essere disposti a riformulare il linguaggio religioso. Capisco che è una grande fatica, è più facile ripetere, no? Però, ecco, riformulare, lasciar cadere molte affermazioni contenute nei testi sacri, non forzare il testo, piuttosto capire come e perché è stato scritto, per tempi diversi, interlocutori diversi, e forse bisogna avere anche il coraggio di riformulare alcuni linguaggi perché possa risultare chiaro. Per esempio, beh, qui insomma, ci sono dei lavori, ma poi sono stati lasciati cadere. Per esempio Paul Tillich, un teologo del secolo scorso, diceva, beh, insomma, queste parole non ci dicono più niente, bisogna ripensarle. Salvezza, che cosa vuol dire salvezza? Cosa si può intendere oggi? Non si può intendere un intervento miracolistico di una qualche divinità immaginaria, oppure un regno luminoso dove abitare dopo la morte. Naturalmente poi è legittimo per ciascuno di noi pensare qualunque cosa, ma ecco, forse per salvezza si intende la speranza che una preghiera venga esaudita, la certezza che a tutti è data la possibilità di stare dalla parte dell'amore invece che dell'odio. Quando si dice redenzione, la redenzione, cioè, in ambito biblico ha un significato preciso, era un riscatto pagato per... Allora, Gesù di Nazareth è la nostra redenzione perché il prezzo è stato pagato per la liberazione dell'umanità. Ecco, ma forse oggi non possiamo più fingere di credere a queste parole, allora le dobbiamo riformulare, o forse se invece qualcuno le sente come vere, però allora mi deve convincere. Ecco, forse la possibilità della redenzione, la possibilità che vi possano essere quella degli sprazzi di bene in mezzo al male, per tenere salva l'idea che dopo tutto la vita non è il male. E quando si parla di cieli nuovi e nuova terra, possiamo attendere che qua e là, nel nostro mondo lacerato, ferito, percorso da fremiti, da sussulti, una piccola pace possa essere data per prendere respiro. Questo forse può sembrare poco, ma a me non sembra poco. In ogni caso è tutto quanto, cioè fin qui arrivo a dire. I giorni della Chiesa. E questo era l'intervento di Gabriella Caramore, scrittrice, autrice, conduttrice radiofonica e televisiva, sul tema Riforma e Parola, Fondamento e Libertà, uno degli incontri proposti dal Centro Universitario di Via Zabarella in occasione dei 500 anni della Riforma Luterana 1517-2017, incontri che hanno occupato diversi martedì di questo anno pastorale. Ancora molti ce ne sono in calendario e quindi ci diamo appuntamento anche nei prossimi giorni per proseguire l'ascolto. Grazie a Didaici Regia, a voi per l'ascolto, da Mirko Cavallin a tutti buon proseguimento con Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa, eventi e incontri della Diocesi di Padova.